Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Sebbene Miss Quested non si fosse accattivate le simpatie degli inglesi, riuscì a far emergere quanto c'era di bello nel loro carattere. Per qualche ora dilagò un'esaltata commozione, che le donne sentirono ancora più intensamente degli uomini, seppure non così a lungo. «Che cosa possiamo fare per questa nostra sorella?» era l'unico pensiero delle signore Callender e Leslie, mentre in carrozza attraversavano l'afa implacabile per andare a prendere notizie. Mrs. Tarleton fu l'unica visitatrice ammessa nella camera della degente. Ne uscì nobilitata da un altruistico dolore. «È la mia cara figliola», furono le parole che disse. Poi, ricordandosi di essersi sdegnata del suo fidanzamento col giovane Hislop, si mise a piangere. Nessuno aveva mai visto piangere la moglie dell'intendente. Capace di lacrime, lo era, sì, ma le riservava sempre per una circostanza adeguata, e questa volta era il caso. Ah, perché non erano stati tutti più buoni con quella sconosciuta, più pazienti, perché con l'ospitalità non le avevano offerto anche i loro cuori? Quel tenero cuore del cuore che viene così di rado impiegato, per un poco essi lo usarono sotto l'assillo del rimorso. Se tutto è finito, come lasciava capire il maggiore Callender, ebbene, tutto è finito e non c'è più niente da fare. Ma nell'atroce offesa subita dalla ragazza, loro avevano una responsabilità che non sapevano definire. Anche se non era una di loro, avrebbero dovuto adottarla come tale, e ormai non potevano più farlo. Al punto dove era, gli inviti non contavano più. «Perché non si pensa di più agli altri?» sospirava la gaudente Miss Derek. Nella loro forma più pura, questi rimpianti non durarono che qualche ora. Prima del tramonto, altre considerazioni li contaminarono, e il senso di colpa, che così stranamente si ridesta non appena scorgiamo una sofferenza, aveva cominciato a diminuire. Entrarono nel circolo con calma studiata. Gentiluomini di campagna che si scarrozzavano al piccolo trotto tra verdi siepi, perché gli indigeni non dovevano sospettare che erano preoccupati. Si offrivano l'un l'altro i soliti liquori, ma tutto aveva un gusto diverso, ed essi guardavano all'esterno la palizzata di cactus che pugnalava la gola purpurea del cielo. Si rendevano conto d'essere a migliaia di miglia da qualunque paesaggio per loro comprensibile. Il circolo era più affollato del solito. Una giovane madre, una ragazza stupida ma molto bella, sedeva col bambino in braccio su una bassa ottomana nella sala da fumo. Il marito era in giro per il distretto e lei non osava tornare al suo bungalow per paura che i negri attaccassero. Moglie di un piccolo funzionario delle ferrovie, era di solito guardata dall'alto in basso, ma quella sera, con la sua figura matronale e la folta massa di capelli biondo grano, simboleggiava tutte le cose per cui vale la pena di battersi e di morire, un simbolo forse più permanente della povera Adela. Con un batter delle mani, l'intendente pregò di far silenzio. Era molto più calmo di quando se l'era presa con Fielding. In realtà, era sempre più calmo quando si rivolgeva a molte persone che nei colloqui a due. «Voglio parlare soprattutto alle signore», disse. «Non c'è motivo di inquietarsi, restate calme, calme. Non uscite se non quando è indispensabile. Non andate in città, non parlate davanti ai servi. Questo è tutto. Harry, si hanno notizie dalla città? Domandò la moglie, tenendosi a una certa distanza da lui e assumendo lei pure la sua voce da salute pubblica. Durante l'augusto dialogo, gli altri rimasero zitti. Tutto normalissimo. Questo risultava anche a me. I tamburi sono soltanto la festa del Muharram, naturalmente. Soltanto i preparativi, riprese lui. La processione non si svolgerà fino alla settimana entrante. Infatti, non prima di lunedì. Mr. McBride è laggiù camuffato da santone, disse Mrs. Callender. Ecco, proprio le cose che non bisogna dire, osservò lui, indicandola a dito. Mrs. Callender, ve ne prego, siate più cauta di questi tempi. Io... Non era offesa. Quella severità le dava un senso di sicurezza. Altre domande? Domande necessarie? Quel... Dov'è quel... balbettò Mrs. Leslie. In prigione. La libertà provvisoria è stata rifiutata. Subito dopo parlò Fielding. Voleva sapere se c'era un bollettino ufficiale sullo stato di Miss Quested o se le gravi notizie erano pure chiacchiere. La sua domanda fece cattiva impressione, anche perché aveva pronunciato il nome della ragazza. A lei, come ad Aziz, non si alludeva che sotto perifrasi. «Spero che tra non molto Callender sia in grado di farci sapere come vanno le cose». «Non vedo come quest'ultima domanda possa definirsi necessaria», commentò Mrs. Tarton. «Le signore vogliono lasciare la sala da fumo per piacere?» esclamò l'intendente battendo di nuovo le mani. «E ricordatevi di quello che vi ho detto. Noi confidiamo che ci aiutiate a superare un momento difficile e voi potete aiutarci comportandovi come se tutto fosse normale. Non chiedo altro. Posso contare su di voi?» «Ma certo, Gran Sahib», fu il coro di quelle facce sgomente ed ansiose. Uscirono. Soggiogate ma esultanti. Quelle semplici parole avevano ricordato a tutte che erano un avamposto dell'impero. Accanto alla loro amorevole compassione per Adela scaturì un altro sentimento che a lungo andare doveva soffocarla. I suoi primi sintomi furono piccoli e insignificanti. Miss Tarton, al tavolo del bridge, fece il suo chiassoso, ardito spirito. Mrs. Leslie si mise a sferzare una sciarpa. Quando la sala da fumo fu sgombra, l'intendente si sedette sull'orlo di un tavolo, in modo da poter dominare senza solennità. La sua mente era un turbine di impulsi contrastanti. Voleva vendicare Miss Quested e punire Fielding, rimanendo tuttavia scrupolosamente giusto. Avrebbe voluto fustigare tutti gli indigeni che vedeva, ma senza far nulla che provocasse disordini o la necessità di un intervento militare. Il terrore di dover impiegare le truppe gli era sempre presente. I soldati raddrizzano una cosa, ma ne lasciano storte altre 10 e hanno il gusto di umiliare l'amministrazione civile. Quella sera nella stanza c'era un unico soldato, un giovane ufficiale di un reggimento Gurkha. Era un po' brillo e considerava provvidenziale la propria presenza. L'intendente sospirò. Pareva proprio che non ci fosse altra scelta che la vecchia e noiosa tattica del compromesso e della moderazione. Quanto rimpiangeva i bei tempi antichi, quando un inglese poteva vendicare il proprio onore senza che dopo nessuno gliene chiedesse conto. Il poveretto di Hislop aveva tentato qualcosa di simile, negando la libertà provvisoria, ma l'intendente non era affatto persuaso che quel poveretto di Hislop avesse agito con saggezza. Il Nawab Bahadur e gli altri si sarebbero irritati, ma non basta. Anche il governo dell'India vigila. E alle sue spalle quella cricca di maniaci e di vigliacchi che è il Parlamento inglese. Egli doveva continuamente ripetersi che, agli occhi della legge, Aziz non era ancora colpevole. E quello sforzo lo stancava. Gli altri, meno gravati di responsabilità, potevano comportarsi con disinvoltura. Avevano cominciato a parlare di donne e bambini, la frase che basta ripetere un paio di volte perché dispensi il maschio dalla saggezza. Ognuno sentiva che quanto gli stava più a cuore era in pericolo. Ognuno chiedeva vendetta ed era colmo di un ardore non disdicevole, nel quale la fredda e poco nota fisionomia di Miss Quested svaniva, sostituita da tutto quello che di più dolce e caldo esiste nella vita. «Ma si tratta delle donne e dei bambini!» ripetevano. E l'intendente sapeva che avrebbe dovuto farli smettere di montarsi la testa, ma non se ne sentiva l'animo. Si dovrebbe costringerli a dare ostaggi, e così via. Molte di quelle donne e di quei bambini sarebbero partiti per la guarnigione di montagna tra pochi giorni, e qualcuno suggerì che si sarebbe dovuto mandarli via subito, con un treno speciale. «Ed è un ottimo suggerimento!» gridò l'ufficiale. «L'esercito dovrà intervenire, presto o tardi». Nella sua mente un treno speciale era inseparabile dalle truppe. «Questo non sarebbe mai successo se i monti Marabar fossero stati sotto il controllo militare. Stanziare un pugno di Gurkha all'entrata della grotta. Non occorreva altro». L'intendente annuì con simpatia e disse ai suoi: «Non cominciate a portare armi in giro. Voglio che tutto continui esattamente come al solito, finché non c'è ragione di cambiare. Mandate le donne in montagna, ma fatelo senza trambusto. E per l'amor del cielo, che non si parli più di treni speciali. Quello che pensate o provate non conta. Forse anch'io ho qualche sentimento. Un indiano singolo ha tentato, è accusato di aver tentato un misfatto». Si batté violentemente la fronte con l'unghia e tutti capirono che era sconvolto quanto loro e lo amarono e decisero di non accrescere i suoi problemi. «Finché non ci sono altri fatti, agite basandovi su questo», concluse lui. «Partite dal presupposto che ogni indiano sia un angelo». Tutti mormorarono: «Avete ragione, Gran Sahib, angeli, proprio così». E l'ufficiale: «Proprio come ho detto io. Gli indigeni sono gente a posto, presi uno per uno. Leslie? Leslie! Vi ricordate quello con cui ho fatto una partita qui nel vostro Maidan il mese scorso? Beh, quello era a posto. Tutti gli indigeni che giocano a polo sono a posto. Quelli che dovete tartassare sono queste classi colte. E badate che stavolta io so quello che dico». La porta della sala da fumo si aprì, lasciando entrare un brusio di donne. Mrs. Starton esclamò: «Adela sta meglio». E da tutte e due le parti della comunità si levò un sospiro di gioia e di sollievo. Entrò il chirurgo civile che aveva portato la buona notizia. La sua pesante faccia giallognola aveva un'espressione bisbetica. Girò lo sguardo sulla compagnia, vide Fielding accovacciato sotto di lui su un divano e fece... Tutti si misero a domandargli qualche particolare. «In questo paese nessuno è fuori pericolo finché dura la febbre», fu la sua risposta. Il miglioramento della sua paziente pareva sdegnarlo, e ciò non stupì nessuno di quelli che conoscevano il vecchio maggiore e le sue manie. «Mettetevi seduto, Callendar. Raccontateci tutto. Mi ci vorrà un po' di tempo. Come sta la vecchia signora? Febbre? Mia moglie aveva sentito dire che stava andandosene. Ah, può darsi. Non garantisco niente, ma proprio non me la sento di farmi tempestare di domande, Leslie. Scusate, amico mio». «Hislop sarà qui tra un momento», disse Callendar. Al nome di Hislop, una bella e nobile espressione ricomparve su ogni viso. Miss Quested non era che una vittima, ma il giovane Hislop era un martire. Era il bersaglio di tutto il male diretto contro di loro dal paese che avevano cercato di servire. Portava la croce del Sahib. Ed essi si rodevano, perché non potevano fare niente per lui. Si sentivano così vigliacchi a starsene là, seduti sul morbido e ad aspettare che la legge seguisse il suo corso. «Ah, davanti a Dio, rimpiango d'aver dato il permesso a quella perla del mio assistente. Preferirei essermi tagliata la lingua, sentirmi responsabile. È questo che mi brucia. Rifiutare e poi cedere alle suppliche. È quello che ho fatto, figli miei. È quello che ho fatto», disse Callendar. Fielding si tolse la pipa di bocca e lo guardò pensieroso. Supponendo che avesse paura, l'altro continuò: Avevo sentito che un inglese doveva accompagnare la spedizione. Ecco perché ho ceduto. Ah, nessuno vi biasima, caro Callender, disse l'intendente abbassando gli occhi. Tutti siamo da biasimare, nel senso che avremmo dovuto capire che la gita non dava garanzie sufficienti e quindi impedirla. Ne ero informato anch'io. Questa mattina abbiamo prestato la nostra automobile per portare le signore alla stazione. In questo senso siamo coinvolti tutti, ma su voi personalmente non ricade la minima punta di biasima. Io non la penso così. Magari potessi. La responsabilità è una cosa terribile, e a me non piacciono quelli che si tirano indietro. I suoi occhi erano fermi su Fielding. Chi sapeva che Fielding si era impegnato a fare da scorta e aveva perduto il treno dell'alba, lo compianse. Non ci si può aspettare altro da un uomo che fa comunella con gli indigeni. Finisce sempre in modo vergognoso. L'intendente, che ne sapeva di più, rimase zitto, perché il funzionario in lui sperava ancora che Fielding rimanesse allineato. La conversazione tornò sulle donne e sui bambini, e il maggiore Callender colse quel pretesto per tirare dalla sua l'ufficiale e istigarlo contro il professore. Fingendosi più ubriaco di quanto fosse realmente, quello cominciò a fare osservazioni quasi offensive. «Avete saputo del servo di Miss Quested?» riattaccò il maggiore. «No. Che cosa?» Ieri sera Hislop aveva avvertito il servo di Miss Quested di non perderla mai d'occhio. L'imputato ne ha avuto sentore e ha fatto in modo di liberarsi di lui, l'ha pagato. Hislop è venuto a sapere adesso tutta la storia, con tanto di nomi e di cifre. Il denaro l'ha dato un mezzano ben noto a quella gente, un certo Mohammed Latif, e tanto basti per il serbo. Quanto all'inglese, il nostro amico qui presente, come liberarsi di lui? Altro denaro. Fielding scattò in piedi, sostenuto da mormorii ed esclamazioni, perché nessuno aveva ancora messo in dubbio la sua integrità. «Oh, mi avete frainteso! Tante scuse!» disse il maggiore in tono offensivo. «Non volevo dire che hanno pagato Mr. Fielding». «E allora che cosa volevate dire?» «Hanno pagato l'altro indiano, perché vi facesse far tardi. Godbole. Stava dicendo le sue preghiere. Ah, le conosco, quelle preghiere. Ma questo è ridicolo!» E Fielding tornò a sedersi, tremando di rabbia. Venivano trascinati tutti nel fango, a uno. Scoccata questa freccia, il maggiore preparò la successiva. Hislop è venuto a sapere qualcosa anche dalla madre. Aziz ha pagato un branco di indigeni per soffocarla in una grotta. Ecco la sua fine. O meglio, quella che sarebbe stata la sua fine se lei non fosse uscita. Ben trovata, no? Elegante. Così lui ha potuto continuare con la ragazza. Lui, lei e una guida, messa a disposizione dal solito Mohammed Latif. Ora la guida è irreperibile. Magnifico! La sua voce scoppiò in un muggito. Non è il momento di starsene seduti. È il momento di agire. Chiamate le truppe e ripulite i bazar. Fielding dimenticò la rabbia provocatagli da quell'accusa contro il povero vecchio Godbole e si fece pensieroso. Il male si stava propagando in tutte le direzioni. Pareva che avesse una vita propria, indipendente da tutto quello che gli individui facevano o dicevano. E adesso lui capiva meglio perché Aziz e Hamidullah avessero avuto la tentazione di buttarsi giù e di morire. Il suo avversario lo vide turbato e ora arrischiò la domanda. «Niente di quanto si dice nel circolo uscirà dal circolo, immagino?» E intanto strizzò l'occhio a Leslie. «Perché dovrebbe uscire dal circolo?» rispose Leslie. «Oh, niente, ma corre voce che nel pomeriggio un certo socio qui presente è stato a trovare l'imputato». «Non si può correre con la lepre e cacciare coi cani, non in questo paese, almeno. C'è qualcuno tra i presenti che voglia farlo?» Ma Fielding era deciso a non raccogliere altre provocazioni. Aveva qualcosa da dire, ma l'avrebbe fatto al momento giusto. L'attacco non riuscì a maturare perché l'intendente non gli prestò rincalzi. Per un attimo l'attenzione si stornò da Fielding. Poi tornò a irrompere il brusio delle donne. La porta era stata aperta da Ronnie. Il giovanotto appariva esausto e tragico, e anche più nobile del consueto. Deferenza ai superiori ne mostrava sempre, ma adesso gli saliva dal cuore. Sembrava che invocasse la loro protezione nell'insulto che gli era stato fatto, e quelli, per un istintivo moto di rispetto, si alzarono in piedi. Ma in Oriente ogni azione umana è guastata dalla burocrazia, e quelli, onorando Hislop, condannavano Aziz e l'India. Fielding se ne rese conto e restò seduto. Fu un atto sgarbato, grossolano, forse persino imprudente, ma egli sentì che era rimasto passivo fin troppo e che a non opporre resistenza rischiava d'essere trascinato nella direzione sbagliata. Ronnie, che non l'aveva visto, disse con voce rauca: «Oh, prego, prego, state seduti, voglio solo sapere cosa è stato deciso». «Hislop! Sto spiegando che sono contrario a ogni ostentazione di forza», disse l'intendente in tono di scusa. «Non so se sarete d'accordo, ma questa è la situazione in cui mi trovo. Ottenuto il verdetto, sarà un'altra faccenda». «Voi ne sapete certo più di me. Io non ho nessuna esperienza, signore». «Come sta vostra madre, figliolo?» «Meglio, grazie. Ma vorrei che tutti si sedessero». «Qualcuno non si è nemmeno alzato», disse il giovane militare. «E il maggiore ci porta notizie consolanti di Miss Quested», continuò Tarton. «Proprio così, proprio così. Sono soddisfatto», disse Callender. «Prima eravate in ansia per Adela, non è vero, maggiore? Per questo ho rifiutato la libertà provvisoria». Callender rise con amichevole cordialità e disse: «Hislop, Hislop, la prossima volta che vi chiedono la libertà provvisoria, telefonate al vecchio dottore prima di concederla. Alle spalle larghe lui, e detto in assoluta confidenza, non prendete troppo sul serio i suoi pareri. È uno stupido chiacchierone, per non dire altro, ma farà il poco che può per tenere al fresco quel...» Si interruppe con ostentata cortesia. «Oh, ma qui c'è un suo amico!» «Mr. Fielding, che cosa vi ha impedito di alzarvi?» disse l'intendente, decidendosi a intervenire nella disputa. Era l'attacco che Fielding aveva aspettato e al quale doveva rispondere. «Posso fare una dichiarazione, signore?» «Certamente». Temprato e padrone di sé, privo di fervori patriottici o giovanili, Fielding fece quella che per lui era una cosa relativamente facile. Si alzò e disse: «Io sono convinto che il dottore Aziz è innocente». «Avete il diritto di tenervi quest'opinione, se volete, ma è forse un buon motivo perché dobbiate insultare Mr. Hislop? Posso finire la mia dichiarazione?» «Certamente». «Io sto aspettando il verdetto del tribunale. Se Aziz è colpevole, mi dimetterò dal mio posto e lascerò l'India. Dal circolo mi dimetto fin da adesso». «Udite, udite», dissero alcune voci, non del tutto ostili, perché la sua franchezza era piaciuta. «Non avete risposto alla mia domanda. Perché non vi siete alzato all'arrivo di Mr. Hislop?» «Con tutto il rispetto, signore, non sono venuto qui per rispondere alle sue domande, ma per fare una dichiarazione personale. E adesso ho finito». L'intendente era così infuriato che perse la testa. Gridò: «Uscite subito da questa stanza! Rimpiango amaramente d'essermi abbassato a venirvi incontro alla stazione. Siete caduto al livello dei vostri alleati. Siete fiacco, fiacco! È questo il vostro punto debole». «Vorrei uscire da questa stanza, ma non posso, finché questo gentiluomo me lo impedisce», disse Fielding leggermente. L'ufficiale gli contrastava il passo. «Lasciatelo andare», disse Ronnie, quasi in lacrime. Era l'unica preghiera che potesse salvare la situazione. I desideri di Hislop erano ordini. Ci fu una piccola baruffa alla porta, attraverso la quale Fielding fu sospinto un po' più rapidamente del giusto nella sala dove le signore stavano giocando a carte. «Che bellezza!» se fossi caduto o mi fossi arrabbiato, pensò lui. Un po' arrabbiato era, naturalmente. I suoi eguali non l'avevano mai minacciato di violenza né chiamato fiacco. Inoltre, Hislop aveva esacerbato tutti i suoi rimorsi. Gli rincresceva d'aver attaccato briga per quel povero, afflitto Hislop, quando c'erano più limpide vie d'uscita. Comunque, ormai era fatta, argomento chiuso, e Fielding, per calmarsi e ritrovare l'equilibrio, uscì un momento nel portico superiore, dove la prima cosa che vide furono i Monti Marabar. A quella distanza e a quell'ora balzavano nel loro momento di bellezza. Erano il Monsalvato, il Valhalla, le torri di una cattedrale, popolati di santi e di eroi e coperti di fiori. Quale furfante vi si nascondeva, destinato ben presto ad essere scoperto dalle forze dell'ordine? Chi era la guida? L'avevano già trovata? Che cos'era l'eco di cui la ragazza s'era lamentata? Non lo sapeva, ma presto l'avrebbe saputo. Grande è il potere investigativo e prevarrà. Era l'ultimo istante di luce. E mentre egli li guardava, i Monti Marabar parvero muovere verso di lui con la grazia di una regina, e il loro incanto divenne l'incanto del cielo. Nell'attimo in cui svanivano, furono dovunque. La fresca benedizione della notte discese, le stelle scintillarono, e l'universo intero fu una montagna. Squisito, meraviglioso istante, ma sfiorò l'inglese con rapide ali e col viso girato altrove. Egli non provò nulla. Fu come se qualcuno gli avesse detto che quell'istante c'era stato e lui fosse costretto a crederci. Ed improvviso si sentì incerto e insoddisfatto e si domandò se come essere umano non era un vero e proprio fallimento. Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.